che ci fai qua, tu che ci fai qua, che ci fai qua, tu che ci fai. Il cielo sembra il culo di un asino che non si alza mai. Che ci fai qua, tu che ci fai? E il mare sembra un mostro nero come fanno i marinai. Che ci fai qua, tu che ci fai? Come fai a stare in piedi mentre la terra gira? Respira, respira. E come faccio a cantare con il cuore in gola? Funziona, funziona. Appena nati ci hanno lanciati come dadi, come cani, in mezzo ai chiodi, in giri strani. Uno schiaffo sul culo e via andare, senza insegnarci nemmeno a respirare. Hanno uso il culo degli altri cani per capire chi mi assomiglia. Da quando sono nato provo a farmi una famiglia. Senti come piglia bene bene, come piglia, come piglia. Oh oh, appena nato mi hanno detto: tu che ci fai qua? Tu che ci fai qua? Che ci fai? Cazzo vuoi? Cazzo fanculo, vorrei farmi i cazzi miei. E siamo palloncini in una stanza di spilli. E ci hanno insegnato che si deve stare tranquilli. Non ti bucare, no, non ti devi fare male, no. Non ti agitare, no, non devi sudare. Ma mi sento un po' gonfio e mi sa che sto per scoppiare. Oh. E che ci fai qua? Tu che ci fai qua? Che ci fai? Che ci fai qua? Tu che ci fai? E che ci fai qua? Tu che ci fai qua? Che ci fai? Che ci fai qua? Tu che ci fai? Il cielo sembra il culo di un asino che non si alza mai. Che ci fai qua? Tu che ci fai? E il mare sembra un mostro nero come fanno i marinai. Che ci fai qua? Tu che ci fai? Come fai a stare in piedi mentre la terra gira? Respira, respira. E come faccio a cantare con il cuore in gola? Funziona, funziona. Buongiorno. Cafferino e canna a letto, ottavo piano, giambellino, panorama, canaletto. Coi fratelli mi capisco con lo sguardo, l'impasto in un palmo, il cuore nell'altro. Una mano al corazon, la otra al cielo. Una mano al corazon, la otra al cielo. Una mano al corazon, la otra al cielo. Una mano al corazon, la otra al cielo. Tu al cielo. Che ci fai qua? Tu che ci fai? Che ci fai? Che ci fai qua? Tu che ci fai? E che ci fai qua? Tu che ci fai qua? Che ci fai? Che ci fai qua? Tu che ci fai? Come fai a stare in piedi mentre la terra gira? Respira, respira. Ma come faccio a cantare con il cuore in gola? Funziona, funziona. Funziona, funziona, funziona. Oh, Ganuna, Pablo Borci, México, Italia.